c'è un'evoluzione positiva sollecitata soprattutto dal Parlamento europeo nei rapporti fra il Parlamento europeo e la Commissione. E come tutti sanno, la Commissione è un organo nominato dal Consiglio europeo, i commissari sono scelti dai governi dei singoli paesi e al Parlamento spetta semplicemente il compito di ratificare la nomina del Consiglio europeo. In questo caso, come però fu anche nel caso della Commissione Santer, quando Santer fu costretto a dimettersi, c'è un'evoluzione positiva, nel senso che il Parlamento non ha accettato supinamente le decisioni degli Stati nazionali e respingendo la nomina di Buttiglione agli affari della giustizia, ha dimostrato che il Parlamento può divenire un organo effettivamente responsabile di fronte all'opinione pubblica europea e con questa funzione sindacare le nomine e sindacare anche i programmi politici che i diversi commissari hanno. Quindi ci troviamo in una fase evolutiva dei rapporti fra le istituzioni europee che io giudico fortemente positiva, oltre al fatto che naturalmente la bocciatura di Buttiglione e la cattiva figura fatta dal governo italiano nel nominare un simile rappresentante nella Commissione è ancora più grave se si pensa che domani avverrà a Roma, che è la capitale in cui si sono stati compiuti gli atti fondamentali dell'Unione Europea adesso e prima del mercato comune, prima ancora insomma della storia dell'Europa, della costruzione europea, la cattiva figura è dovuta al fatto che proprio il governo italiano che ospita questo appuntamento ha visto bocciato per un suo rappresentante e a causa di questa bocciatura è entrata addirittura in crisi l'intera Commissione. A proposito della ratifica del Trattato Costituzionale, qual è la vostra posizione al riguardo? Questo che si accingono a firmare gli Stati è un trattato fra gli Stati e non è certo una Costituzione, e la differenza non è da poco, perché una Costituzione è decisa dai popoli, a meno che non si voglia tornare alle Costituzioni cosiddette octroyées dell'epoca della restaurazione post-rivoluzione francese. Quindi questo che ci troviamo di fronte è un trattato deciso dagli Stati, non prevede come suoi articoli fondamentali un catalogo dei principi e dei diritti fondamentale e sono sempre la prima parte delle Costituzioni. Il primo articolo di questo trattato che adotta la Costituzione per l'Europa è l'articolo che attribuisce i poteri all'istituzione europea, il che significa che gli Stati sono sempre coloro che decidono che cosa cedere e cosa non cedere della propria sovranità. Negli articoli fondamentali che seguono a questo articolo 1, a partire dal 2, non è prevista il ripudio della guerra e il diritto alla pace, e questo per noi è una carenza gravissima, perché la pace è semplicemente assunta fra gli obiettivi politici del trattato che adotta la Costituzione per l'Europa, come dice il titolo nella copertina, e questo per noi già ne fa un dato negativo. Così come l'assunzione della Carta di Nizza come seconda parte non è sufficiente a garantire i diritti delle cittadine e dei cittadini europei, perché questi diritti sono limitati appunto dai trattati precedenti, cioè dire, non avendo l'Unione Europea un potere generalizzato, la fruizione per esempio dei diritti sociali alla salute, all'educazione, alla previdenza, all'abitazione, sono esercitabili nella misura in cui gli Stati hanno deciso che siano esercitabili, quindi sono limitati. E non a caso sono limitati, perché poi a dominare l'impianto del trattato è il mercato, la concorrenza, la competitività. intorno a questo mercato, concorrenza e competitività, si è costruita l'Europa che oggi viene appunto eretta a Costituzione, quindi per la prima volta noi ci troviamo in una Costituzione l'esaltazione del mercato come epicentro della Costituzione stessa. Su questo giudizio, cioè che noi ci troviamo di fronte ad un trattato, non una Costituzione, l'intero movimento No Global, per capirci, è compatto. Poi certo ci sono delle componenti che dicono comunque l'assunzione del trattato di Nizza è pur sempre un elemento positivo, comunque l'elenco all'articolo 2 dei principi fondamentali di libertà, di democrazia è pur sempre un passo in avanti. Il punto che ci unifica comunque è che noi vogliamo fare delle mobilitazioni, delle iniziative per passare dal trattato ad avere effettivamente una Costituzione non più redatta e sottoscritta dagli Stati, ma preparata, decisa, elaborata dai popoli europei.